Ciao a tutte, ciao a tutti, siamo appena entrati nell'ufficio dell'Alitalia, della stazione di Cadorna qui a Milano, per protestare, per andare anche a boicottare e a sabotare dal basso una delle aziende che si rende partecipe della deportazione dei migranti. Domani ricordiamo la giornata di mobilitazione per i migranti, per il diritto dei migranti. Eccola l'Italia, l'abbiamo detto più volte, anche dopo il corteo di Corelli di settimana scorsa, si rende partecipe della deportazione illegale, la compagnia di bandiera italiana appunto, portando i migranti anche a volte completamente imbavagliati, scocciati dalla testa ai piedi, i voli civili. Questo è già successo che a volte addirittura il personale dell'Alitalia si è rifiutato di far partire il volo in quelle condizioni di ordine pubblico. Ecco, noi oggi siamo entrati negli uffici dell'Alitalia di Cadorna, la piazza ovviamente della stazione è piena, stiamo volantinando, stiamo portando anche a conoscenza di più quello che l'Alitalia fa. In questo momento 4-5 compagni si sono incatenati agli sportelli dell'Alitalia, l'attività dell'ufficio ovviamente è totalmente bloccata perché è impossibile in questo momento accedere agli sportelli, accedere ai terminali di Alitalia. In questo momento stiamo chiedendo ovviamente la possibilità anche di parlare con chi dirige l'ufficio, con i dirigenti dell'Alitalia per parlare con loro, per spiegargli quello che succede e soprattutto per chiedere la fine di questi voli illegali, la fine di queste deportazioni che sono veramente scandalose e che non hanno nulla di degno e di conseguenza appunto siamo qua a bloccare. Certamente Mauro, grazie per questa corrispondenza, rimaniamo ancora un po' in diretta, infatti questa iniziativa ben segue anche quella di questa mattina quando a Roma un medesimo tipo di iniziativa è stata portata avanti contro un'altra compagnia delle deportazioni. Dicevamo Mauro che a Milano è ben noto cosa succede dentro il lager etnico di Via Corelli e l'Alitalia è assolutamente corresponsabile di quanto avviene nelle deportazioni. Sì, sicuramente è completamente corresponsabile e anzi è una di quelle compagnie, una di quelle aziende che lucrano sul commercio di migranti, perché non possiamo che chiamarlo commercio quando veniamo a sapere che queste persone vengono impacchettate e buttate su un aereo, appunto lucrano, guadagnano e sono una delle compagnie che tengono di fatto in vita quello che è il business del CPT, che non è solamente ovviamente il lager etnico che si vuole creare per rinchiudere i migranti, ma è sicuramente, noi l'abbiamo anche identificato come uno di quei luoghi del potere della guerra continua, globale permanente contro cui ci battiamo, uno di quei luoghi che la legittimano e che vivono grazie alla guerra, quindi sicuramente un luogo di guerra, questo lo è in modo totale. Adesso qua vabbè un attimino di intemperanza da parte di qualcuno dei bar antistanti l'ufficio dell'Alitalia che si sta prendendo un attimino male, ma stiamo spiegando anche a loro quello che stiamo andando a fare, quindi niente di preoccupante.